I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Parlare di svolta sarebbe eccessivo ed è meglio che tutti, a partire dal Presidente del Consiglio, invitino alla prudenza quando si affrontano dati come quelli diffusi dall'Istat ieri, in cui sostanzialmente si registra una stabilizzazione dell'indice delle povertà delle famiglie italiane. Stabilizzazione infatti non vuol dire riduzione, vuol dire semplicemente che il numero di famiglie considerate in condizioni di povertà assoluta e povertà relativa non è aumentato. Si è quindi fermata una crescita costante che andava avanti da 2 anni, ma ancora ce ne vorrà prima di poter parlare di un'inversione di tendenza vera e propria, anche perché i dati continuano a fotografare 4.120.000 italiani in condizioni di povertà assoluta e 7.815.000 italiani in condizioni di povertà relativa, con dati che nel nostro mezzogiorno sono più che doppi rispetto alla situazione del centro-nord. Certo, un altro rapporto diffuso da Prometeia registra un miglioramento nel 2015 del reddito disponibile, 1% in più, ma nello stesso tempo va a ridurre anche le previsioni di crescita per il 2016. Un altro tassello per dire che, seppure in un contesto di leggero miglioramento, quella che può apparire una ripresa appare sicuramente una ripresa macchia di leopardo, e per non essere fraintesi dall'opinione pubblica è meglio usare la massima prudenza. Solo quando questi dati avranno un segno più e non semplicemente un arresto della dinamica in corso, potremo dire che il Paese ha finalmente cambiato verso. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Dopo il voto del Parlamento di Atene, che ha detto sì al piano di riforme sul fronte del salvataggio della Grecia, arrivano oggi 2 importanti notizie. La prima è che l'Eurogruppo sbloccherà 7 miliardi di prestito ponte per Atene. Il prestito servirà per restituire le rate in scadenza del piano di salvataggio del 2012. Peraltro, proprio lunedì prossimo scade una rata che vale circa 3,5 miliardi destinata alla Banca Centrale Europea. L'altra notizia riguarda proprio la Banca Centrale Europea, che a sorpresa ha alzato il tetto della liquidità di emergenza per le banche greche. È un passaggio molto importante, perché dopo 3 settimane di chiusura questa mossa dovrebbe portare alla riapertura delle banche greche. È un passo verso la normalità, per la quale però servirà ancora altro, perché il piano di salvataggio deve sbloccare 25 miliardi di euro necessari per la ricapitalizzazione delle banche di Atene. Con la decisione della BCE viene elevato di circa 900 milioni il tetto di uno strumento che si chiama ELA e che consiste appunto nella possibilità di erogare moneta a favore delle banche greche che sono in questa fase a corto di liquidità. Intanto si rafforza il fronte di quanti ritengono che il salvataggio di Atene non possa prescindere da un taglio del debito. In campo è sceso anche Mario Draghi. È indubbio, ha detto ieri, che il debito greco vada alleggerito. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.